Uhibbuki mislama anti. Uhibbuki kaifama kunti. Wa mahma kana mahma sara. Anti habibati anti. Zawjati anti habibati anti. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sallu alaihi. Cintaku seperti cintamu padaku. But dirimu selalu ku